bin non c'è niente, c'è NB/ANR, poi c'è vabbè il Roger Bip, c'è il Meter, c'è lo Split, c'è l'HL per aumentare il watt, PRG, poi c'è SHF, mi serve quello è per il cursore per cambiare i decimali, poi c'è la memoria, poi c'è MAN che serve per il coso, per lo scanner, ed enter, e poi ci sono le due freccette per salire, per spostare il coso, per salire i decimali, per salire e abbassare i decimali. Mettere a cosa serve, è trovato? Mettere ti dà la cosa, ti dà, come si dice, a fare prestazionarie. Se tu mi ricordo c'è un tastino, non vorrei sbagliarmi, ma c'è un tastino che praticamente aumenta e diminuisce la luce. E di solito si chiama dimmer, una cosa del genere, capito? Guarda, mentre non ci vediamo video, comunque tu per lo sapere leggi e scrivi, prendi il tether, lo metti in grosso, ok? Corrente continua, in grosso, e metti il puntale rosso con rosso, nero con nero, e guarda voi quanto sta uscendo quello che metto a torre. Va bene, faccio così, sto uscendo, sì, perché adesso ho schiacciato il tastino meter e c'è la scritta CAL nel display. Già sto uscendo sempre. Secondo me è il coso sbagliato, il come si chiama, l'affare lì, lo strumentino. Non ti fare, ti sto uscendo, prenditi il petto, non è un paio a farlo fra un mese, fallo subito, capito? Perché se sono alimentato non va bene, se sono alimentato lo bruci. Allora prendi il tester e lo controlli subito, e così ti rimuovi il problema. E a domani vado, me lo compro il tester, perché non è un... Ecco, non ne se lo sapevo te l'avrei mandato da... Io 2 o 3 te l'avrei mandato da Massimiliano, che non ti ha preso il microfono. E se lo di lungo, mi non so quanti ne ha. Costa 5 euro, 3 euro, uno di quelli di plastica piccolini, già sono tanto per fare 2 misurazioni, capite? No, però io ce li ho anche buoni, io 2 o 3, uno me l'ha regalato anche Antonio Grotta, ce l'ho, capite? Quindi se ti serve te lo mando giù, ma se no passi e ti rubigli. Già mi serve, tanto per fare la misurazione e poi te lo restituisco. Domani se ci sei salgo, lo prendo, scendo, misuro e risalgo il tavolo. Sì, poi sai, a quanto fa? Stagliate il tiro lungo, a te li tiro, ce ne ho 2 o 3 io, non me ne faccio niente. Vabbè, allora domani come esci dal lavoro, io sono in radio qua, come esci, prendo il camper e salgo. Positivo, non c'ho problemi. Perché adesso sono 13,5. Ed è quasi spenta la luce, le luci sono quasi spente. Tanto c'è qualche funzione oggi, me la ricordo perfettamente, l'avevo fatta anche a me, perché non avevo giù la radio. E poi ci avevo toccato un pulsante, una funzione, forse funzion, dove c'è scritto funci, e un altro tantino e aumenta la tensione della luce, capito? A Massimiliano che vi dico, perché l'ha usato più lui di me quello, Io l'ho usato un paio di volte e poi l'ho tenuto spento, l'ho messo dentro la scatola perché non mi serviva, capito? Adesso vediamo entra Massimo, tu? Ti metto la tanto, ho passato a prendersi del coso, poi mai doveva fare qualche altra commissione e poi ce ne va a casa. Passato a prendersi le mie BQ4, intanto io non lo uso, non va nuovo. E lo usa lui col Galaxy, capito? Ho capito. E com'è tra gli occhiello? Che mai se lo ricordo? Mi chiedo, c'è qualche funzione, le pigliole funziona e poi un altro fatto che non mi ricordo, si aumenta la tensione, si illumina di più il baracchino, capito? Tutto qua. Ok, e tu già sta a posto? Sì, a posto. La tosse c'è sempre forte, però la febbre grazie a Dio sta passando, avevo qualche vignetta sino a ieri sera, ma stamattina non ne avevo, però sempre questa tosse è persistente, sto prendendo gli antibiotici perché c'è un'infezione respiratoria e quindi sto prendendo questi antibiotici per far passare questa infezione qua. E dimmi una cosa Claudio, misura le bici 60 in altezza, fa la cortesia che devo controllare una cosa, a vedere quanto è alta, se c'è un termometro mi fai tu, se c'hai un metro a parata di mano. Oh scusate, ci sentiamo più tardi che sono andato a mangiare, ciao. Ciao ciao Eugì, ho una carica. Ciao Eugì, ci sentiamo. Allora appena inclinato è 20, c'è quella punta un po' portata in su, 20, ma lo potrebbe fare anche 18. Quindi vabbè, già ci sta tranquillo. Sì, già ci sta. Buonasera Giovanni. Quando mi ha visitato il polmone scritto da dietro, appunto, mi ha detto che c'era qualche problema. Lì ho iniziato però a aver paura. Invece è questa influenza che è veramente malefica, che secondo chi becca lo fa fuori. E pensare che io non sono soggetto a queste cose, capito? Io lo stesso, senza prendermi febbre, lo so da quando ero, magari un raffreddore sì, ma febbre proprio averla 38, 38,9, come l'ho avuta sino all'altro giorno, ero da un secolo che non ne prendevo così. Un raffreddore o un mal di gola posso anche prenderlo, ma la febbre proprio no. E niente, mi ha detto di starmene a casa sino a quando mi guarisce bene bene la tosse, perché la ricaduta è molto peggiore dell'influenza normale. Oh già, ti sto dicendo che tu gli vuoi fare così, che mi stai spaccando la testa, io sono in cuffie. Oh già, guarda, lascia stare, non me ne voglio ricordare. Io ripeto, una resistenza allucinante, non capisco cosa sia successo, proprio non ne ho la minima idea. Evidentemente è un'influenza che va a soggetto, no? A seconda. Magari ci sono quelle proprio più pericolose che manco ti sfiora, è così già. Sì, infatti, è così proprio. Come mi senti adesso? Il bip c'è già. Ah, il bip ti dà fastidio. Io appena dai, come vuole mi spacca la testa. Ma quello di qui non si può togliere, questo apparecchio non si può togliere, bip. È fisso. No, manco filtro, se no avrei impostato su quella frequenza, non l'avrei attenuata appena. E vabbè, lascerò così. E influenza, influenza. Quando mette mano l'influenza sa dove andare e cosa fare. Io me la sono fatta proprio sotto, tutto lì, brutta, ma brutta veramente, è come una cosa, bevevo solo tè e basta, nient'altro, nulla di più, altrimenti guai, ce l'ho finita con l'augmentin come antibiotico. E poi ho continuato a lavorare con uno sciroppo speciale e con un fluidificante, perché poi la mia è una cosa vecchia che non riuscivo proprio a mandare via. Adesso ce l'ho fatta, fortunatamente. Il punto è già che io non posso prendere manco antibiotico, perché sono, ma non posso prendere manco sciroppo perché sono diabetico e non ne posso prendere, quindi mi devo accontentare delle cure, diciamo, che mi facevano lì attorno, diciamo, ma non era proprio specifica. Mamma mia, quello è un bombardamento. Ma guarda, ti dico una cosa, se hai la bronchite asmatica, quando la bronchite asmatica si sveglia, a volte preferibile prendersi l'influenza e curarla con medicine omeopatiche, piuttosto che andare a curare un'influenza collegata con la bronchite asmatica che si è svegliata. Non te lo so descrivere già, ma credimi, gli attacchi erano fortissimi. Lo so, ho visto una ragazza della dottoressa, stava facendo male a me, aveva questi attacchi di tosse da uscire negli occhi. Sono dovuta uscire fuori, ho detto, avanti, se vuoi qualcosa, vuoi un goccio d'acqua? Ho detto, sì, qualcosa da bere, che non ce la facevo più bere. Sono dovuta andare in un negozio a prendere una bottiglietta di aranciata, l'ho preso e si è ripresa un po', però ogni tanto riveniva questo attacco forte, si faceva rossa. Il mio peso, immagino, l'ho quasi 10 volte moltiplicato. Adesso non è più, no? Adesso è scomparsa, adesso è a cuccia, è sotto, non c'è apparentemente, però la bronchite non la mandi mai via. Quando si incontra con un'influenza del genere, cosa succede? Praticamente ostruisce completamente, i bronchi vengono praticamente pressati, no? Non so se hai mai visto in uno schema così dell'anatomia del corpo umano, i bronchi quando sono attaccati dalla bronchite asmatica, che è una specie di radice, appunto lungo i bronchi, affoga, proprio affoga, non niente, non c'è niente, non respiri, non c'è da fare. Allora, fortunatamente avevo il forza alla portata di mano, alle 2 di notte mi sveglio, non capivo più, sono riuscito a darmi una pompata in bocca e lì mi ha liberato, ma poi alla fine manco tossivo più perché non respiravo. Ciao, lo so, è brutto perché me l'ho visto anch'io così, quando stavo tossendo mi è mancato il respiro proprio, è un bel brutto, eh. È un'influenza malassorta che lascia a posto i dolori da tutte le parti, non potevo muovermi dai dolori che avevo, capogiro, debolezza, tosse, raffreddori, di tutto. Poi fossi io solo, ho contagiato pure la mia moglie e quindi eravamo in due, non potevamo uscire manco a fare la spesa, nulla. E l'altro giorno abbiamo dovuto mandare mia figlia, che lui era l'unica superstite a casa, perché Marcolino ce l'ha portata da scuola l'influenza, poi siamo stati tutti e due attaccati, perché lui sa il bambino, ci vede magari a letto e cosa ci vuole vedere in mezzo e cosa ci ha contagiato, capito? Lascia perdere, io sono entrato, ero quasi guarito, sono entrato in un negozio di un amico, ho beccato la commessa, tutte le ho prese. È un brutto periodaccio, guarda, dal dottore l'altro giorno c'era un concentramento di batteri, di virus, che era una cosa allucinante, chi tossiva, chi raffreddore, chi tosse, chi con la febbre, con gli occhi in gloria, li vedevi. Io l'altro giorno sono andato dalla dottoressa e c'ero dalle 3:15 sino ad arrivare alle 5:20. Immaginati tu la gente che c'era. No, fortunatamente qui sono arrivato presto e mi ha preso subito, anche perché lui mi conosce. Praticamente io faccio già le prime ricerche, le faccio su internet, no, il mio dottore personale in internet, intanto lo chiamo e pare che già risponda ai comandi. E ho visto che alla fine, come ti si chiama, ero lì perché le ho spiegato alla dottoressa cosa avevo visto in internet, mi ha detto sì, no, mi dica tutto come la storia, le ho spiegato tutto quanto quello che praticamente il dottore mi aveva già diagnosticato e ho visto che è riuscita comunque a darmi immediatamente le cure giuste, mi ha regalato il fluidificante, dice prendi, perché con lei andiamo d'accordo, no? Quando arrivo lì ho già più o meno le diagnosi di quello che mi è successo, se dice no, perfetto, infatti mezzo mi curo io e mezzo mi cura lei, solo con la differenza che lei mi autorizza per le medicine, no? Vabbè, ma la vita è la pappa pronta già, più bene di così, la fai, la indirizzi sul punto giusto, va? Sì, no, ma lo sa, si fida. Infatti mi chiede sempre, beh, niente ricerca, no? Quando non sono sicuro neanche le faccio. No, dottore, non so cosa sia successo. Infatti come ha controllato i polmoni, poi quando sono riuscito appunto a rimettermi in piedi, mi ha detto no, c'era qualcosa, dice, però è andata via, cioè, si sta risolvendo tutto. Anche dice, i fischietti che avevo precedenti, avevo dei fischietti, no? Si è sciolto tutto. Quindi probabilmente stava andando a fondo già da prima, già. Si stava incubando. E probabilmente ti trova un po', diciamo, debole da quel punto di vista lì, e quando c'è qualche influenza o qualche cosa subito si riaffaccia il problema. Niente ti pare, riaffaccia, si impenna, e mi passa con la ruota lì davanti in faccia sgommando. Vabbè, devi stare attento a non prendere molti colpi d'aria a queste cose qua, perché se sei soggetto a queste cose, quella di fronte l'anno scorso si è preso la broncopolmonite con l'influenza l'anno scorso, è dovuta stare ricoverata, aveva una brutta broncopolmonite, è una ragazza giovane di 30 anni, non una vicia. Ma tu non sai la resistenza che ho io. Non ne hai idea già, eppure mi ha crepato. Sai cos'è? Quando tu vai fuori e vai a lavorare nei cantieri, intanto è tutto aperto nelle costruzioni. stazione, poi quando sono le linee cantiere. Ciao, buonanotte, allora in mezzo ai monti, good eye, tirando condutture allucinanti, e lo devi fare bene, il fatto è che lo devi fare a norma, quindi immaginati tu, allo freddo non c'entra niente lì, non c'entra niente, a tirare tutta birra, poi te li tiri, però intanto nel contempo sei soggetto a veramente una bronchopolmonite. Sì, ha portato in piedi come sono io quando lavoro, che sono in strada col furgone, che apro, faccio quello che devo fare, ricarico, chiudo, sto sempre scendendo e salendo, nel furgone c'è il pentito di riscaldamento, fuori c'è freddo, sta piovendo, capito? È così la ragione. Purtroppo non tutti i lavori sono uguali, non tutti i lavori ti danno il tettuccio al calduccio, eccetera, eccetera. I rischi sono questi. Poi quando vivi come me in un ambiente di lavoro dove ci sono 50 persone, tutti con raffreddore, tosse, bisogna di darsi, per forza prima o poi te lo prendi. Ehi, cosa c'è? Una cosa micidiale. La cosa micidiale. Freddo, umido, colpi d'aria, poi non è che hai più 15 anni, quindi inizia a smattacchiare la cosa. Te lo sto dicendo, quella distanza che ho io è sembrato stare un po' a tutti, non ho detto boh. E invece ha soggetti, evidentemente quel tipo di influenza a noi ci tocca di più. Adesso ci siamo fatti callo con gli anticorpi e spero che riusciamo la prossima volta a superare. Poi mi era quella altra cosa fastidiosa, che mi si sono formate delle pustolette nel palato. Nel palato, in tutta la gengiva, le gengive. Hanno scaldato con la febbre, deve essere, si è formata queste pustolette, ma sono così fastidiose, guarda. E a dire la verità, avevo le labbra distrutte, pustole niente, ma le labbra erano già, guarda, è presente quando uno ha sete che è in mezzo al deserto dopo una settimana, identica. Si crede, disidratato, normale. Non è una cosa da scherzare. Io, guarda, sono stato male un 20 minuti senza dormire, sono stato, io ho per i dolori, ho per il mal di testa, ti prendevo anche mal di testa a volte. Mi sono dovuto alzare anche a prendere i lucchi perché ho tutta dolore. Sì, beh, ok, me ne sono preso un paio, mi ha fatto sudare e mi ha smollato, però quello che ha fatto di più è l'augmentina, evidentemente mi ha beccato in pieno, proprio al momento giusto, e hanno fatto andare tutto via. Perché poi probabilmente in una cura di antibiotici durante l'arco dell'anno hanno sbagliato, gli è successo qualcosa, non so, ma hanno sbagliato e non erano riusciti a mandarlo via mal curata. Adesso invece ce l'hanno fatta, perché la dottoressa ha detto i sintomi giusti, tutto lì, va, già, come si dice, i motori quando invecchiano poi, va, sempre qualche problema in più salta fuori. Vabbè, non siamo anche sul livello, già non siamo ancora vecchi, c'è la gente più vecchia di noi, ancora ne abbiamo del vecchiare già. Ma guarda, sinceramente non fisicamente, assolutissimamente, grazie a Dio sono una persona abbastanza robusta, e una presenza tranquilla, non è quello il problema. Dico però, i motori quando invecchiano manifestano sempre qualche difetto nuovo, ma è questione che siamo vecchi, la questione è che se ho 45 anni non ne ho 20 già. Lo so, è vero anche quello, ma diciamo non siamo ancora, vabbè, dai 50 anni in su si comincia a dover stare attenti a tante cose, a non mangiare troppo, a non mangiare grassi, a non mangiare cose che fanno male, tutte queste cose qui bisogna starci un po' attenti, da 50 anni in poi. Ma quello già mi è passata la voglia di mangiare, mi ha attenuato l'appetito in un modo micidiale, questo tipo influenza. Poi non è che sono un gran mangione. Bevo un'isba, qualche caffè, non fumo, non faccio molti stressanti. Il mio lavoro non mi permette di poter bere o fumare, purtroppo è un lavoro troppo delicato, per cui se voglio stare in linea con quello che è il mondo reale, non devo bere già. E quando mi bevo un ditino di acqua vite, vedo anche gli spiriti maligni. Bisogna stare attenti anche perché il colesterolo a quest'età comincia già a salire, a fare, prima non ti dà disturbi, magari poi come cominci a avere qualche anno in più comincia il colesterolo, comincia quello, comincia là. Io sono anche diabetico, quindi devo stare attento. Io questa influenza qua, ti dico la verità, se ti dico cosa mangiavo, la minestrina di dadi, e la sera mangiavo minestrina di dadi e un arancio. Un arancio lo prendevo solo perché contiene vitamina C, sperando che mi facesse bene all'influenza. Però non sentivo sapore di nulla. E quando mia moglie mi diceva, mica c'è la carne, no, non le voglio, come non le voglio, mangio qualche cosa che non puoi stare con la minestrina. Beh, sono già 2 settimane che sto mangiando minestrina e frutta, senza mangiare se corto. Ma quale colesterolo? Che stasera ero in palestra, che stavo lì organizzando un impianto audio, e c'era una signorina, signorina, se scendi di 6 kg faccio la dichiarazione via web. E l'istruttore si è avvicinato e dice, bada bada, stai parlando con lui, bada geloso come un cane. C'erano 2 o 3, ho iniziato a calappiare lì, capito, c'erano anche vecchie amiche e abbiamo fatto spola tutta la sera, abbiamo fatto nero, cazzo, capito, è cosa in cerca di colesterolo. Mi sono seduto un attimino in quell'accidente di manubri, mi sono messo 100 kg e stavo giocando, sollevando in quella specie di corruccolone, 3-4 colpi già li ho dati ancora. E poi mi sono alzato e l'ho detto a quella mia conoscente, l'ho detto anche a te vuoi dare 3-4 colpi così mica. Altro che colesterolo, esatto. E lì sotto l'ha incazzato nero. Sto parlando con lui. E quello ha detto, scusa, ma che vuoi? Quello è mio amico, lì. Da ragazzi, sempre assieme, ci conosciamo, ci abbiamo fatto feste che tu dici, ma con progetto, vedi? Pensa cosa ne avevo. Ma e poi cosa ne ha di fatto? Ah, non lo so, si interessano, no? Si interessano, capito? E quella contenta, giustamente, scambiando due chiacchiere. E così, è così. E cosa è colesterolo? Ma va. Sì, in periodo scorso magari un po' di pancetta avevo così, ma è andata via subito. Poi adesso con questa influenza me l'ha mangiata. Beh, come tutto. Ma è tornato anche un mio collega quando io stavo ancora lavorando giù che c'aveva l'influenza, è tornato che non voleva visto in faccia, era tirato. Ui, male fa già. Fa solo male, punto. I dolori sono dolori, di qualsiasi genere siano, non piacciono a nessuno. Questo è il ragionamento giusto, perché la gente dice un braccio, un piede, una testa, ma i dolori sono dolori, non piacciono a nessuno. A me non mi piacciono. E io che piaccio. Mi do la felicità e l'allegria che i dolori. Ma se ti sto dicendo che sta potentando, sta facendo il marchione, stasera, lì le vecchie amiche simpaticissime tutte ridendo, Udai, vedere tu, capito, gigante Iappa e Udai. Quindi ti sentivi il calore in mezzo al pollaio? Igua, ma no, è questione di attrazione, non c'entra niente. E poi le donne non pensano come noi, sono esseri difficili e quindi loro nella loro complessità vanno a cavarne i piedi, che dite di jodere. Mi daranno un puttano, ti prenderanno per puttaniere. Ma diciamo che comunque sono molto serio come persona. adesso. Vabbè dai, vai Gianni, tranquillamente. Buona carica, dai, ci sentiamo dopo. Spero che tua moglie non ti abbia sentito dicendo queste cose, se no è pronta con Mazzarella. Ci sentissimo, buon proseguimento, grazie alle quattro chiacchiere. Un saluto in famiglia e mi raccomando, lascia stare influenza che... Appena posso l'abbandono, te lo prometto. Molla tutto, capito? Molla tutto. Misurati la febbre come fanno i samurai. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, buonanotte. Buona carica. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Bella attesa.